finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo, sei solo chiacchiere distintivo. 2 dicembre 2015, Radio Onda Rossa. 87,9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Today, 25 o'clock saluta le prove tecniche di trasmissione. E così un po' a sorpresa, un po' improvvisata. Stasera faremo una chiacchierata con un po' di amici, compagni che suonano, che suoneranno in una prossima iniziativa di presentazione di Scarceranda che faremo al Forte Prenestino e di cui andremo a parlare diffusamente fra breve. Dicevamo Radio Onda Rossa, e andiamo a ricordare appunto che Radio Onda Rossa vive dal 1977 in maniera autogestita e autofinanziata. Radio Onda Rossa che vive perché vivono i movimenti, le lotte. Chi si attiva in città. Onda Rossa quindi che vive grazie al vostro supporto, ascoltatori e ascoltatrici che ne condividete il progetto editoriale, compagni e compagne. E ovviamente in questo periodo ne parliamo spesso per radio di questa cosa, ci troviamo in uno di quei momenti una radio autogestita come la nostra vi chiede un sacrificio in più, vi chiede di dimostrare così il vostro affetto per la radio, la vostra partecipazione anche in maniera monetaria, perché stiamo a corto di piccioli, le bollette incombono e insomma stiamo girando parecchio per la città anche per raccogliere fondi per Radio Onda Rossa. Quindi vi ricordiamo quello che è il numero del conto corrente postale 618040 01, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volsci 560185, Roma, San Lollo. Sei 491 750, il recapito telefonico ondarossa@ondarossa.info, la mail per mandare le vostre comunicazioni alla redazione 25 o'clock@ondarossa.info, per insultare il sottoscritto, i sottoscritti di 25 o'clock. Microfoni, perché è così. Come si presentavamo? È la domanda. Vabbè, vi presentate bene, innanzitutto. Mi sembra che vi presentate bene. Quindi, sì, non avete ancora deciso, però a metà strada fra. Parliamo adesso. Sì, vicini al microfono. Vicini al microfono. Come si presentano? Il nome. Quale nome? Sì, uno c'ha un gru. Vabbè, c'è un. Siamo un'onda. Certo, era troppo per forza. LVDHN. Questa è la risoluzione ufficiale, però. Benché ci fosse il dubbio fino a 30 Livorno, secondi. Torino. Sì, l'acronimo. No, Ancona. Ancona. Non è cabaret, sono un gruppo, suonano. Cioè, vabbè, insomma, seri voi. Lo dice, decideremo. Da? Ma già sì, cioè da, venite da, ma già siamo sì. Tutti cresciuti a Manziana, abbiamo vissuto a Manziana, però viviamo tutti a Roma da un paio d'anni. Quindi ancora una formazione come ne sono venute tante dalla provincia nord di Roma, dalle località sabazie. Però questa volta, insomma, andiamo a parlare di un gruppo che sì, insomma, ci suona bene a 25 o'clock, lo commentavamo prima, perché tante e tanti di questi suoni abbiamo mandato nel corso degli anni e in qualche maniera, anche se non direttamente, siamo così contenti che ci siano delle band che continuino a cimentarsi, insomma, su questo tipo di suoni. Che tipo di suoni, da quanto tempo suonate insieme? Non moltissimo. Sì, Marco, chitarra e voce. Giacomo, batteria. Michele, basso. Okay. Quindi in tre, facile facile, è il minimo sindacale. E abbiamo detto venite da Manziana. Da quanto tempo più o meno state esercitandovi in questo progetto? Saranno ormai 3 anni più o meno che suoniamo. Sì, abbiamo avuto all'inizio una breve pausa perché il chitarrista, cantante è andato in Erasmus per un po' di mesi. Però no, più o meno saranno 3 anni. Sì, sì. Ok. E con quante produzioni fino a questo momento? Abbiamo produzioni, abbiamo fatto uscire un EP che però è uscito solamente con un CD fatto da noi, mm-hmm. così, e una cassetta, una tape registrata, mm-hmm. e poi un vinile con uno split. Ma lo dice proprio come se manco lui si ricorda. Se mi ha fatto uscire. No, sto a pensare adesso mentre ne parlo. Non ci avevo mai pensato a questa cosa, no, che faccio, no, uscire. Che è uscito. No. Vabbè, poi ne parliamo magari anche dopo, vai. No, volevo ieri. Sì. Vabbè, è uscita una cassettina che ci ha fatto un'etichetta in Germania. È uscito in cassetta e poi è uscito. Cioè l'abbiamo presi 10 giorni fa i vinili, abbiamo fatto uno split a 4 con 3 gruppi tedeschi. Che mi sa quello che abbiamo visto su Bandcamp. Sì. Ok. Perfetto, più che visto abbiamo sentito. E io direi invece proprio subito di cominciare a sentire una traccia che mi suggerite, così appunto andiamo a chiarire di cosa stiamo parlando. Siamo sentiti una delle ultime proprio di questo vinile, di questo split. Vinile? Quindi quello che è indicato come. Tupa tupa che tupa, in realtà tupa. È vacuum. Poi dopo magari spieghiamo pure perché ci sta scritto tupa tupa. Sì. Thank you. Allora, ritorniamo in onda, quindi dopo aver ascoltato Vacuum. E non Tupa Tupa. Sì, perché c'è qualcuno che boicotta poi in realtà, no? Qui credo, a quanto ho capito. Vale Ravelio. Poi piano piano andremo chiarendo tutti questi misteri. Allora, non so se si riesce a sentire bene perché mi sa che ho un problema sulla cuffia, spero che non vada in onda. Dunque, allora, stavamo appunto, abbiamo semplicemente dato così le coordinate generali, quelle che si danno sempre, per cominciare a capire di cosa stiamo parlando. Come siamo arrivati a questo suono, da quali pensieri, idee, suggestioni, se c'è qualche ascolto in particolare che vi ha influenzato, e magari se questo tipo di ascolto non c'entra nemmeno nulla con quello che fate voi. Guarda, in realtà ci siamo, io e Michele siamo un altro gruppo, è morto, e abbiamo deciso di provare a suonare. Cerchiamo un batterista, e già come era amico nostro abbiamo detto vabbè, proviamo a fare qualcosa. Questa è la genesi, insomma. Sì, e sono visti in saletta, ma in realtà non c'avevamo zero idee chiare, non ci andava di fare, ci siamo cresciuti tutti, però non ci andava di fare il punk hardcore classico con testi diretti, perché ce n'è tutto il bisogno del mondo, però non ci andava di farlo perché comunque magari non ce la tentivamo di fare quella cosa, mentre proviamo a fare qualcosa di più personale. E in realtà ancora adesso penso che non ci abbiamo per niente le idee chiare su quello che facciamo, cioè partendo dal demo arriva alle ultime cose, e le ultime che abbiamo scritto sono proprio tutte diverse, e sempre che poi sì, va sempre più verso una direzione un po' più diversa dal primo demo, un po' più marcia, un po' più lenta, pesante, sì, un po' sì, insomma. Ma pure con, pezzi più veloci, sì, però c'è una bella differenza tra le prime registrazioni. Okay. Poi magari la sentiamo, così facciamo il confronto più tardi. Sì, basta vedere, cioè nell'ultimo tour che abbiamo fatto, ogni la cosa che ci piace pure a noi è che ogni concerto abbiamo fatto sulla locandina c'era un genere diverso. Quindi ma un genere nel senso un carattere, ma sì, sulla locandina devi dare, sì, devi dare qualcosa, questa cosa. Cioè, secondo voi la domanda è poi cioè va bene mettere il o comunque suggerire il genere così per tutto sommato. Guarda, io sono contento che non lo fanno più sulle locandine proprio, perché c'era un periodo che era scritto pure sotto le locandine cosa il genere. Il nome della sulla locandina e il genere sotto. Sì. Adesso si limita a mettere no, adesso non su più. Facebook. Adesso si mette su Facebook se c'è l'evento. Però pure là abbiamo visto di tutto. Ti hanno apostrofato con diversi. Vabbè, penso poi pure noi alla fine primi. Sì, però noi non sappiamo. Se mi dici che facciamo, non te lo so dire. Però principalmente sì, ma penso che sia pure una cosa che ci piace, nel senso non averci un genere predefinito, per cui gente dice post hardcore. Come ci siete arrivati, nel senso il gruppo che dove militavate prima? Ma era un hardcore un po' strano, un po' melodico. Però diciamo abbastanza ascoltato. Sì, già, sì, nulla sì, di... sì. Sì, noi siamo partiti, magari volevamo fare un po' più post hardcore, scrimo, poi è degenerata e non. Per me gli ultimi pezzi non c'hanno né niente, non c'hanno proprio niente di scrimo. Ok. Se esiste un genere scrimo, però sì, gli ultimi pezzi non c'è proprio niente di gente. Però ce li scrivono lo stesso comunque. Ogni tanto. No, se cioè, no, infatti no, la domanda era proprio quella. Cioè, in realtà potrebbe anche non esserci scritto, poi uno so va a cerca, sarebbe pure più. Però sì, sai com'è? Per far venire meno gente al concerto, sì, uno purtroppo deve mettere una definizione, a volte è pure comodo per certo, sì, una questione di comodità, esatto, una questione di comodità, certo, però era. Magari poi troppo una... infatti essendo sempre magari non c'è più. Sì, no, ci stanno tante band che in realtà stanno un po' al confine, quindi poi è difficile, oppure proprio chi non c'è genere, per fortuna, perché vuol dire sa fare delle cose che non sono ascrivibili. Quindi passiamo, dato che alla prima domanda non hanno risposto, passiamo alla domanda di riserva, quella che cosa fare nel tempo libero. No, no. No, è venuta fuori sta cosa, la vogliamo raccontare, poi magari, anzi, prima ditemi cosa mandiamo dopo, una cosa magari del demo, del primo demo, lo so, per far sentire il suo contrasto, ditemi voi, insomma. Dai, sì, andiamo 1, 2, 3, 4, chi sa, la 2, vabbè. No, la 2 c'è poi italiano. La 2, dai, dopo andiamo avanti. La 2. Allora, no, volete rispondere dopo a sta cosa qua? Come è uscita fuori la storia del tempo libero? Cosa fa il tempo libero? La domanda? Dopo, dai. Per gli ascolti pure non saprei, sì, che rispondi, se c'è un ascolto che è tutti quanti. No. Pure perché variano, magari sono fissa con sto gruppo, sto periodo, me lo sento pure io, quindi funziona tutto molto più così, diciamo, perché alla fine io e lui viviamo insieme. Ah. E se vediamo con lui tutti i giorni, quindi è proprio un discorso di promiscuità proprio. Sì, sì, ci vedono le webcam. Vabbè, quindi il suono è venuto essenzialmente perché non potevate fare altro che suonare insieme, insomma, esatto. Un po' questo il destino. Vabbè, dai, ci sentiamo la 2. Che, ma c'ha un nome sta 2, no? La 2. Quindi ritorniamo in onda, in diretta, Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale, in onda con una band nativa, diciamo, dei Monti Sabotini e invece residente qui nella capitale, con i difficilissimi... LVTHN. Livorno, Venona, Modella... Ma chissà che, vabbè, al di là del fatto, sì, che è un acronimo, un'abbreviazione che poi lasciamo agli ascoltatori intuire di cosa si tratta e lasciamo la suspense, però comunque potrebbe essere pure qualcosa di cabalistico, no? Potreste giocare pure su questi, però vi vedo molto disinteressati a questo tipo di stereotipi. Perché, no, ma ci ha sempre dato troppi problemi, veramente troppi. Le decisioni in generale. Sì, in sì. Questo è un problema. Vabbè, però se esce bene il suono, insomma, va bene così, insomma, non è che uno... Senti, no, stavamo appunto parlando poc'anzi di una vostra... Posso dire una parola che però poi dopo magari offendete perché tournée. Tournée è proprio sì, molto da poco. Sembra il circo. Sì. Quindi siete andati a fare un giro, dai, raccontateci un po' com'è andata. Sì, è la seconda volta che facciamo un giretto fuori dall'Italia. E niente, stavolta abbiamo fatto Germania, Repubblica Ceca, Austria, Romania, Serbia. E con i Macerie di Firenze. Con i Macerie di Firenze che salutiamo, forse ci stanno ascoltando. Niente, è stato fighissimo, a parte che ci si è rotto il furgone in Serbia e quindi... Vabbè, però quello fa parte dello stereotipo. Non tanto perché abbiamo... No, perché abbiamo saltato una delle serate a cui tenevamo di più, perché era l'unico... Implementare uno squat dei Balcani e non ci siamo potuti andare a vedere, quindi ci dispiace parecchio. E ci abbiamo avuto parecchie vicissitudini con i meccanici in Serbia, che non consigliamo a nessuno, che non consigliamo proprio a nessuno. Beh, i meccanici in generale come categoria, appunto, a parte amici, diciamo, non so, proprio amatissimi. No, poi si rompe proprio il motore, serbi, proprio no. Ecco, ancora di meno. Poi il radiatore in Slovenia è stata una bella avventura. Però in generale è stato... Pure la Romania è stato proprio un ambiente, è stato... Suonando dove? Locali? No, allora abbiamo suonato praticamente sempre in Germania, poi a parte abbiamo suonato a Rote Flora, che è comunque lo squad d'Amburgo, poi certo. In Germania abbiamo suonato in due, non so, l'House Project, non so se definirli squat, a metà, quelli sì, che ecco, sono sì. Magari ex squat legalizzati, sì. Come quasi da a Praga abbiamo suonato uno squat, hanno occupato un anno, era un'iniziativa, c'era stata una manifestazione, una giornata intera, sì. Dedicata, sì, c'era una contro manifestazione perché c'era un corteo nazifascista di quelle cose, le guida contro contro i rifugiati, quindi c'era un'iniziativa tutto il giorno per i rifugiati antinazista e era ma quindi vi siete anche incrociati in questa cosa con... Sì, perché il primo giorno che siamo arrivati a Lipsia c'era una manifestazione proprio di le guida, che è proprio era proprio nella Germania dell'Est, che c'è questo fenomeno assurdo che mo stanno ritornando, cioè Pegida, Leghida, che sono questi gruppi di nazisti che non si dichiarano nazisti ma sotto mentire, esatto. Spoglia, e siamo entrati il primo giorno e ci abbiamo messo 2 ore ad arrivare al posto perché c'era questa manifestazione piena grossa. Di sì, molto grossa. E il secondo giorno, 2 giorni di fila, abbiamo beccato queste situazioni e comunque è stata abbastanza e poi siamo andati in uno squat, magari vanno pure caricato, vanno pure situazioni, no, hanno anche caricato un pochino, no, nella... però no, dico, magari vanno anche caricato, cioè insomma stai a suonare in un posto che comunque è in mobilitazione, che ne so, emotivamente magari aiuta. Sì, no, ma infatti è però sì, sì, sì, sì, sì. Ma pure a Lipsia, mi ha fatto abbastanza effetto e comunque abbiamo parlato parecchio appena arrivati al posto, cioè, perché proprio entrati nella città abbiamo visto queste cose, che è successo? Pensavamo vista che era successo, invece che era tutte queste bandiere della Germania. E questi erano i nazi, insomma. Ok. Va bene. E invece poi, allora, quindi andando per ordine, Germania, Repubblica Ceca. Sì, poi siamo andati. Sì, poi in Repubblica Ceca abbiamo trovato un posto, non so bene cosa fosse, forse un locale crust, diciamo, chiamiamolo così. Poi Vienna abbiamo trovato alle KH, che è proprio lo squat di Vienna. Mm-hmm. E poi in Romania era. Alla risposta, ma voi non avete posto occupati? La risposta no, qui si è proprio come un posto, ti tagliano la gola dopo un minuto. Però pure lì era una situazione bellissima, era una cripta dove c'era una cripta minuscola dove c'era un sacco di gente, c'erano anche dei. C'era un punto di. C'era una biblioteca. C'era la biblioteca, però. Sì. Poi Bucarest in un locale, poi il furgone è rotto. E stiamo andando a suonare l'ultimo giorno a Firenze, a Pistoia, al macello occupato e poi... Okay. Ma se no avreste continuato, non si rompeva il furgone? No, praticamente abbiamo fatto 2 date, Torino Torino. Perché Torino. Si è rotto 2 volte. Si è rotto anche in Slovenia il furgone. E, così, cosa vi danno questi giretti che fate, questi viaggi, al di là del fatto che appunto è una cosa bella, figa, interessante, insomma... In termini proprio di scena, vabbè, scena, cioè nel senso, quando vai a suonare qui, che differenza c'è tra quando suoni magari in un posto qui a Roma o quando suoni a Lipsia, piuttosto che proprio in termini di numeri delle persone, in termini di sensazioni? Guarda, principalmente secondo me il discorso anche di andare a suonare un posto nuovo è quello che non stai con tutti gli amici, non... cioè il discorso è che stai lì, conosci persone e ti va veramente sia a loro che a te di conoscere, di capire quello che loro pensano, che poi magari è lo stesso, però comunque sei portato a conoscere persone, a vedere nuove situazioni e comunque confrontartici. Poi a livello di suonare proprio in tour, secondo me c'è proprio la legge del o te dice bene o te dice male, cioè nel senso ci stanno serate che so una bomba e serate che sono fiacche, sì, che magari preferisci andare a bere una birra in tranquillità perché comunque magari non c'è niente, però questo tour a parte in Serbia non c'è mai successo. Poi non ve viene, no, sì. Buonasera. Ciao. No, mi piacerebbe insomma sapere come è nata la costruzione del tour, come avete preso i contatti, cioè, come avete fatto insomma, quante date sono state il tour? Il numero suonate preciso 12, sì. 12 suonate e 14 sarebbero esatto. Poi perse, poi totali di giorni in cui dobbiamo fare fuori 17. E come avete preso i contatti? Ma cioè? tutti tutti diretti, cioè in Germania rapporti personali, cioè nel senso gente conoscevale che conoscevamo, oppure gente che conosce amico, parla con lui, c'è un gruppo, contatto figo, diretto, eccetera. Sì. Passaparola classico, sì. Insomma. Già dicevate prima inizio trasmissione della cassetta uscita per l'etichetta tedesca, no? Sì. Quindi magari già un primo canale per conoscervi. Sì, sì, sì. Lui è proprio venuto in tour con noi, è un amico nostro. Sì, non ci sentirà, quindi non possiamo salutare, penso. Lo salutiamo lo stesso, io no. No, poi c'eravamo pure già stati in Germania, quindi qualcosa avevamo pure conosciuto già un altro gruppo di Amburgo con cui pure abbiamo fatto poi lo split a 4. E niente. Alcuni contatti li abbiamo conosciuti strada facendo, altri conoscendo le persone. Una data tira l'altra, sì, insomma. Sì, una cosa, sì. Poi impressionante è sempre molto, diciamo, relativamente facile. E in termini proprio spiccioli dei numeri, proprio, cioè serate pure grosse, più grosse di quelle che ci potrebbero essere da queste parti? No. Più o meno, insomma, l'atmosfera da club, insomma, da posto chiuso. Sì, pure perché noi da... penso che i posti piccoli, i palchi, queste cose grosse non ci entusiasmano di tanto. No, sì. Entusiasmano per niente, no, per niente. Allora, dal demo abbiamo ascoltato la seconda traccia, ma non doveva essere la seconda. E invece adesso, per approfondire l'argomento, cosa andiamo ad ascoltare? Qualcosa, ditemi voi, dal secondo lavoro? Ashes. Se riesco a muovere il mouse. Sì, si scende lì. Fire! siamo, dai, ritorniamo più o meno in onda. Quindi ci siamo ascoltati. LVTTHN, LVTTHN, così. Ci siamo ascoltati prima punto o dot, non lo so come vi piace chiamarla. Punto. E poi Ashes da il, dal demo. Self-titled. Il? No, è self-titled. Ah, ok. Prima era Leviathan, quindi si chiama Leviathan. Sì. No, no, da cui stiamo dicendo, no, vabbè, ci siamo mossi nel frattempo. Poi io, no, stavamo dicendo da cui, dal lavoro da cui erano tratte queste due tracce. E a che punto eravamo rimasti? Ai viaggi e invece appunto poi a parte questi giri insomma che fate, che non penso che verranno spessissimo, insomma non succedono proprio una volta all'anno. Una volta all'anno, però così lungo no, la prima volta. Vabbè, buona, no, ogni due diciamo, eh. Sì. E invece la possibilità di suonare da queste parti più o meno con quanta frequenza, dove e poi parliamo magari pure un attimo di dove suoneranno loro venerdì, non questo, quello dopo ancora. Ma no, la frequenza non si può dire, sono stati periodi che abbiamo suonato anche troppo forse a Roma e magari periodi che poi non suoni per niente. Da che dipende? Boh. Da chi organizza? Sì, i posti, boh, penso che. Ma noi preferiamo poi. Sempre vicino al microfono? Sì. No, poi alla fine preferiamo suonare squat, per esempio due tagli. Non sempre. Ste robe qua. Sì. Perché cioè questa preferenza da dove viene in fondo? Attitudine oppure che ne so, cioè te trovi meglio quando diciamo che siamo portati a uscire principalmente, ci capita, cioè frequentiamo quei posti e ci prende più a bene suonare là che magari suonare in un locale X di Roma, però comunque cioè per esempio dal Verme. Vabbè, sì. Ma no, non siamo esclusivamente dentro, non sono il gruppo che, non siamo il gruppo che dice no, non siamo nei locali, però se qualsiasi azione dobbiamo suonare alle 5 di mattina in un posto che ci piace ci andiamo senza problemi. Se dobbiamo andare a suonare con un gruppo X in un locale, magari diciamo vabbè abbiamo suonato la settimana scorsa, settimane fa, magari questa persona mi piace. Il resto è più, cioè non ci appartiene di più in un certo senso, non per fare, però ci appartiene di più che in certi posti ci appartiene, preferiamo insomma quando non c'è solamente il discorso musicale dietro, sempre più piacere insomma. Il centro sociale spesso non è solamente appunto musica, a volte è anche altro, sì, sai, sì. No, cioè, sì, no, il commento e lì così pure un po' la discussione che stavamo facendo fra noi nei giorni scorsi magari verteva pure sul fatto di come in realtà poi tutto sia diventato molto più promiscuo, insomma, nel senso che anche poi dividere le strutture nettamente per centro sociale occupato e autogestito come era una volta, invece il locale che è quello che fa business, insomma, non so, mi può venire in mente una provocazione che le cose si siano molto avvicinate, sì, ovviamente non stiamo parlando dei grossi posti proprio da business puro, insomma, no, non sto parlando di. Però fra l'alternativo e l'antagonista ci sta un po' meno spazio, non lo so. Si sono avvicinate tutte e due le cose, complice la crisi, non lo so. Probabilmente sì, però non lo so, le nostre boh, noi alla fine a Roma lo vediamo soltanto al Verme, penso. E una volta. Quindi non, in realtà non conosco. Cioè, manco senso, poi c'hai troppa. Non abbiamo proprio esperienza in realtà. Cioè probabilmente più abbiamo suonato magari in Italia in più locali che a Roma, perché a Roma veramente penso soltanto a Vermi. No, no, è capitato un altro paio di volte. Dove? Ah, l'Alvarado. Invece di dove suoneranno fra un po' ne vogliamo parlare un attimo. Vai, vai. Insomma, le Vaietan sono uno tra gli altri gruppi che suoneranno a sostegno di Radio Onda Rossa, un'iniziativa a presentazione della nuova Scarcerando 2016 al Forte Prenestino insieme ai Cenere. Quando si aprirà tutto, Against Repression Night. Chi? Ma vabbè, sì. No, vabbè, in pratica era nata questa idea con il Cresta di ripetere un concerto al Forte Prenestino, come era avvenuto nel 2003, insieme ai Destroy Your System, Wizard, oddio, poi chi c'era? Dirty Power Game e Comrades. Insomma, parlando con lui c'era l'idea, insomma, di rifare una cosa del genere. I Destroy Your System si sono ripresentati sotto altro nome, i Rattenkönig, e quindi è nata questa cosa qui. Il titolo dell'iniziativa Against Repression Night era proprio quello di quella sera del 2003, che però casca a fagiolo, nel senso che da quella sera del 2003 a oggi mi sembra che non è che la situazione sia molto cambiata. È cambiata la situazione internazionale, è peggiorata, direi, per cui praticamente in seguito agli attentati di Parigi eccetera eccetera è stata la scusa, insomma, il ma più che la scusa, diciamo, il, come dire, il l'elemento che comunque ha scatenato, no? Ha dato il via, ha dato il là. Ah, il coro praticamente invece di reclamare sicurezza da tutti i punti di vista, che appunto la parola sicurezza nel lessico loro ormai fa uguaglianza con repressione, con controllo, con questo tipo di stato di polizia, sempre più stato di polizia, sempre più stato di guerra, e quindi ci ritroviamo di nuovo a vivere, insomma, quelle brutte situazioni. E lo associamo pure alla presentazione a Scarceranda, che è l'agenda di Radio Onda Rossa, che fa da non lo so da quanti anni sono, dal 99, vedi, e che è l'agenda contro il carcere giorno dopo giorno, che vendiamo a 12 euro. Sono 12 euro che vanno a finanziare la radio, permettono di far arrivare un'altra scarceranda in carcere a un detenuto e una detenuta che ne facciano richiesta, o comunque una parte di scarcerande vanno comunque nelle carceri, insomma, le spediamo là. Scarceranda che viene fatta anche grazie al contributo di molti detenuti e detenute che mandano i loro testi, le loro poesie, i loro disegni che pubblichiamo sulla Scarceranda. Insomma, un po' questo è il modello e il gioco che facciamo da tanti anni con la Scarceranda, e quindi ci darete anche voi a così quella serata che racchiuderà un po' tutto questo. Ecco, parliamo un po' del, non so, dato che abbiamo affrontato poi tutto sommato un argomento così serio, no? Qual è il messaggio che vorreste comunque mandare attraverso gli LVTHN? Diciamo che i nostri testi principalmente, non so, come dicevo prima, non è un qualcosa di diretto, non, certo, però comunque è rinchiusa dentro tutta una questione del tipo, cioè, difficile da spiegare, comunque è più le conseguenze di tutto ciò che è visto in maniera personale, quindi è un discorso proprio, testi che sono più intimi, diciamo, in un certo senso, che però non possono prescindere da tutto ciò che comunque perché comunque è quello l'ambiente in cui viviamo, quindi è questo. E diciamo che non siamo neanche non, io per esempio ho grandi difficoltà, magari ci avrei un sacco di cose da dire a concerti, ma per esempio non è difficilissimo per me magari confrontarmi e dire cose che vorrei dire normalmente, e questo anche nei testi, proprio anche questi discorsi di provare a dire tutto ciò che non va bene, provare a dire tutto quello che comunque viviamo tutti i giorni e che comunque ci confrontiamo, le realtà che viviamo, la realtà antagonista che viviamo, però è difficile metterla nel testo, e quindi i nostri testi principalmente sono questi. Cerchiamo più che altro di andare su posti che sentiamo che comunque ci appartengono in un certo modo attraverso la nostra musica, e questo è principalmente quello che facciamo. Quindi avviene un livello di comunicazione, però non avviene nelle a livello pure, anche perché senti, difficilmente anche se senti i nostri pezzi difficilmente capisci il messaggio che sta dietro, perché anche proprio le parole non si capiscono probabilmente. Sì, però penso che un messaggio appunto non sta richiuso solo esatto, nel esatto, testo, esatto, anche proprio nella musica, cioè penso che nella musica, nel come uno si presenta, esatto, anche nel non, cioè paradossalmente anche nel non detto di questa sera, cioè in tutto quello che è l'omesso, perché è indicibile, perché è difficile da dire eccetera, probabilmente fa parte poi proprio del motivo per cui uno suona questa roba qua, non lo so, è lì il punto. Sì. Non è perché non voglio parlare, perché l'hai espresso lì, volte le parole non so tutto. Ok, esprimiamo con la musica. Sì, e come lo facciamo allora adesso? Visto che abbiamo ascoltato una, due, tre, quattro tracce, insomma ce ne abbiamo parecchie di più. Non è una diciamo, ma non avete pubblicato c'è qualcosa che suonate che non sta qua dentro? Possiamo mettere un pezzo, abbiamo rifatto l'unico testo in italiano nostro, e dovrebbe chiamarsi proprio italiano secondo Valerio, il sabotatore. Sì, lo sì. Salutiamo, non ci sentirà mai, non ci è mai venuto a sentire nessun concerto, che gli piacciamo tanto ma non si è mai presentato. Però, ma lui perché che quale ruolo c'ha? Perché quindi lui ogni volta che fa le registrazioni dai pezzi, dai nomi, e lui registra, inventa su. Ci registra sempre dai nomi. Beh, però in base a quello che pensa che è la, okay, canzone, quindi rititola tutto, esatto. Questa era cantata in italiano, quindi siamo italiano. Quella di prima c'era un tuppa tuppa, e quindi è chiamata tuppa tuppa quella, okay, prima che si chiama Etno Freak, perché ci ha messo i bonghi quindi era Etno Freak. Va bene, quindi adesso italiano. Vai. Italiano con la GL. Mentre continuiamo a perdere dei pezzi, ma insomma fa parte del gioco, dell'atmosfera che si è creata, no? E, dunque, stavo notando, insomma, tre anni di produzioni, 13 tracce, è tutto qui, ci stanno altre cose che eseguite dal vivo, ci stanno altre cose che avete pubblicato, cioè che tenete per voi ma non pubblicate. O più o meno questa è la produzione intorno a queste robe, insomma, poi gira. No, abbiamo altri due pezzi pronti che probabilmente usciranno tra poco, uno split con i Maceri con cui siamo andati in tour. Mm-hmm. Cioè in realtà dobbiamo ancora registrare. Dobbiamo registrarli, però sono fatti. Il problema è che ultimamente i pezzi stanno diventando sempre più lunghi, quindi richiedono anche molto più tempo per essere fatti, insomma, per essere suonati. Cioè stiamo a perdere parecchio tempo in sala per finire un pezzo ultimamente. Quindi altre due tracce in più, e penso che adesso dovremmo riniziare a scrivere qualcosa, probabilmente. Sì, sì. Poi suoniamo sempre le prove un po' così altalenanti. Ogni tanto suoniamo spesso, ogni tanto. Periodi in cui veniamo poco. Beh, ma poi come, cioè, più o meno, la domanda che vanno fatto all'intervista in Serbia è come trascorrete il tempo libero? No, invece io. Guardiamo in Serbia, abbiamo preso il miglior rimborso, penso, della storia del mondo. 3 euro a gruppo. 3 euro a gruppo. Ah, grandi. Grandi, E abbiamo dovuto pagarci tutte le birre da soli. Ci offrivano portare la schia. No. Grazie. un affare, un intervistone. In termini economici, ah, però l'intervistone. No, io invece faccio la domanda al contrario: come occupate il tempo occupato? Cioè, visto che appunto poi anche trovare il tempo e lo spazio per provare è abbastanza faticoso. Quella penso più una questione di pigrizia. Non è che c'è tutte queste cose da fare, insomma. No, beh, studiamo dei media, proviamo a suonare. No, nel senso, no, nel senso che più o meno dovete lavorare o comunque siete mezzi disoccupati in cerca dar nero, insomma, qual è la situazione? No, poi no. Senza fa vaffa. No, studiamo, lavoriamo. Molto così. Sì. Picciata. Quello, che, quello che capita. No, però insomma, il tempo libero in teoria poi ce l'avrebbe pure. La sera ci sta, però poi tra una cosa e un'altra fine. Sto tempo libero non è così tanto. Non è mai libero. Mai libero. Va bene. E no, e invece no, quello che mi veniva così quando avete accennato al fatto di vabbè non adesso cominciamo, cioè per fare un pezzo lungo occorre tanto tempo per registrarlo, per prepararlo, per registrarlo, insomma, per eseguirlo come deve venire. E mi veniva pure in mente rispetto proprio al percorso, no, che avete fatto, che più o meno questa sera un minuto, esatto, un po' questo qui nel tempo, ma anche addirittura rispetto alle esperienze precedenti, dove tutto sommato uno il pezzo punk hardcore, quello può essere sì, anche molto scrupoloso nel volerlo eseguire, però alla fine insomma si è una roba, stop in non sarebbe punk hardcore se non che fosse, è bellissimo così, esatto, e non lo cambierebbe niente, esatto. Invece si va verso qualche altro posto che però ancora non è, sì, che non però richiede più già pure. Parlato dello split che potevamo, sì, no, fare, sì, accennato, sì, accennato. E quindi sempre più cura nel, ma non è tanto la questione della cura, è proprio di mettere insieme le idee, cioè tipo l'ultimo pezzo ci abbiamo messo veramente mesi, eravamo partiti da un riff, abbiamo finito il pezzo, ma non ci piaceva, quindi abbiamo ricominciato, alla fine quel riff iniziale è sparito, è venuto fuori un pezzo totalmente diverso. Però una roba lavorata, sì, tanto. Perché sì, sì, cambiamo, sì, spesso idea. Ma non è neanche troppo di elaborazione, è proprio di orecchio. Sì, è cioè, l'abbiamo sentito col cellulare la seconda, la terza volta che lo facevamo tutto quanto, e ho detto fa schifo. No, ricominciamo. Fa schifo e basta. Bello così. Non è che c'è stato qualcuno che l'ha difeso a un certo punto? No, no, no, proprio appena usciti dalle prove, finalmente abbiamo finito sto pezzo, riascoltiamo solo un attimo. No, la settimana prossima lo ricambiamo. Okay. Abbiamo perso 45 euro di prove. Va bene. Dunque, ci siamo, io 23:56, non lo so, comincerei a chiudere, senz'altro vi lascio uno spazietto, magari ci sentiamo una traccia, poi andiamo ai saluti finali, che l'avete un po' così accennati durante la puntata, e va bene anche così, insomma. Però appunto molte volte succede che qualcuno c'ha la mamma e vuole salutare, sì, parenti, così. Esatto. No, vabbè, dai. Ci sentiamo un'ultima cosa da parte Etno Free. Etno. Questa la dedichiamo a Ivan. Questa sì, la a Ivan De, Carlos Dunga, cioè, Maceria, De Lorean. Io stavo quasi De Lorean, soprattutto, che sto molto bene dei Maceri. Io spero troppo che i Maceri stanno a sentire. La dedichiamo a lui e ma pure a tutti gli altri. E a tutti i Maceri. Lorenzo, Ivan, Cassandra. Tozzini. Tozzini. Mezzanotte e due minuti, Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. 06491750, recapito telefonico. LVTHN in studio e per i saluti finali. Dunque, sì, c'era qualche cosa che volevate aggiungere? No, mi avete già risposto, perché siete di poche parole. Siamo di poche parole, per cui cioè, non è che abbiamo troppo da dire. E invece no, una cosa ve la facciamo dire noi, insomma, rispetto a... C'è già pronto lì? C'hai proprio da leggere? Cosa? Niente, invito, no. Invito a sì, la no, serata. No, pensavo che era aperta magari la pagina su PC là. No. Vabbè, non fa niente. Certo. Non importa. A memoria. Sì, a memoria. Mi trovi impreparato. Mi ricordo. No, a memoria. Che nell'11 dicembre al Forte Prenestino suoniamo con Xenerex, con Gratten Koenig e Karakuri. Sì. E se, insomma, presentazione scarceranda. Per la sola. No, niente, Radio Onda Rossa e per questo, per questa roba qua. Sì. Per far funzionare questa radio. Sì, che mi fa l'intervento. Dai, venite a parlare. Palle parlare. No, scherzo. No, va bene, che permette pure di mandare la musica. Io stavo ascoltando ieri sera, non stavo ascoltando la radio come di solito faccio in macchina, insomma, che sono, e stavo così girando per le radio e non ho trovato un altro suono come quello di Radio Onda Rossa, anche sulle radio, diciamo, che una volta trasmette vicine a noi, diciamo, mm-hmm. cugine, parenti, non lo so, che c'hanno una storia magari comune, mm-hmm. Comune, insomma, come pionieri della radiofonia del movimento, cioè, io ieri sera non l'ho trovata una radio anche con un automatico come quello di Radio Onda Rossa, con un certo tipo di suoni che non sono poi quelli che si sentono dappertutto, ovunque, non lo so, insomma, no, anche questa cosa è figa da mantenere, almeno così nell'FM, poi vabbè, nelle web radio ormai si trova di tutto e di bellissimo, però insomma richiede un altro tipo, no, di atteggiamento. Va bene, dai. Infatti venite. Se l'era preparata, infatti qui venite. Venite voi. Ok, va bene. Allora, noi ce ne andiamo, credo, vabbè, prima della sigla proprio e della cosa finale dobbiamo ascoltare qualcosa, mi sembra. L'ascoltiamo e basta, dopo ne parliamo. We'll be right back. Quindi ultimissimo lavoro per Razza a parte, uscito da qualche settimana, un mese e mezzo, una roba così. Brucia. Disco anniversario per i 20 anni della OI Band viterbese. Ci lega un bel rapporto di complicità, di solidarietà, di compagnume con loro. Che hanno suonato la scorsa estate proprio per Radio Onda Rossa in un bel concerto con The Vile in quel del Forte Prenestino. Una faccia con gli amici, una faccia in società. Memorabile concerto. E vola via il pensiero, ma dietro con la testa a un nuovo disco, a un altro giro in Vespa, a quei giorni lontani che sono ancora in te. Voglia di vivere, voglia di vivere, voglia di vivere. E intanto una presentazione per Scanceranda. Sabato 5, sabato prossimo. Voglia di vivere. Dalle 17.30. Fare maschere, uno nessuno. Ottava zona. Precipito tra quello che vorrebbero che fossi e quel che sono, annegando tra le remore. Via Lussimi in piccolo 19-17, Borgata Gordiani, Roma Est. Quindi alle 17.30 presentazione di Scarceranda 2016, dibattito su carcere e repressione. Intervengono in redazione, la redazione di Radio Onda Rossa, Salvatore Ricciardi e Mattias Moretti e la rete Evasioni. Cena sociale per Radio Onda Rossa, quindi al termine, e ci saranno appunto le Scarceranda. E poi l'abbiamo detto poc'anzi, appunto l'appuntamento per l'11 dicembre, venerdì, dalle 18.30 in poi al Centro Sociale Occupato Autogestito Forte Prenestino, Again Repression Night, serata a sostegno di Radio Onda Rossa, Forte Prenestino, via Federico Del Pino, 100 Celle, Roma. E quindi 18.30 presentazione di Scarceranda, a seguire la cena festiva alle 22.30, concerti con Carcuri, Cenere, Vatten Koenig. E LVTHN ovviamente. È dato che un fantasma si aggira di nuovo per gli studi del mercoledì sera. Gli andiamo a domandare se così, un'anteprima di domani. No, beh, era giusto in realizzazione. Probabilmente parleremo del concerto di sabato allo Spartaco con Godog tra gli altri, insomma, altri gruppi, e presenteremo probabilmente l'iniziativa di sabato e poi insomma altre cose in vista del concerto dell'11 dicembre al Forte domani. E l'oretta insomma è andata. Quindi appunto il palinsesto di Radio Onda Rossa prosegue dopo la fine delle trasmissioni che terminano la diretta con 25 o'clock. la luce, la dignità. E quindi, oltre alle repliche della notte e la compagna Domenica Zara, dalle 8 di domattina prime pagine, lettore di prime pagine, rassegna stampa cittadina, redazionali della mattinata. Che farai? Lotterai? Alle 13 il giornale radio, alle 13.30 lo spazio comunicazione, a seguire Visionari, la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa, alle 15 tracce di cinema. Attica Blues, oltre la Black Music, forse alle 16. La Schiena del Sole alle 17, Profondo Rosa alle 18.30, il giornale della radio alle 19.30, alle 20 lo spazio comunicazioni. Alle 20.15 la trasmissione di musica classica di Radio Onda Rossa, Allegro con Fuoco. Alle 21, ovviamente, l'avete sentito adesso, Do It Yourself Invasion. E alle 22 a chiudere i cuginetti di Apostasia. Bella pizza, bella Fongis. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro che ci ascoltano da condizioni di limitata libertà personale, il carcere, la latitanza, la clandestinità, gli arresti domiciliari, i famigerati CIE, gli obblighi di firma e tutta questa merda qua che si chiama repressione. Bella a tutte e a tutti, ci risentiamo mercoledì prossimo con un altro... chi viene? No, i Cenere no, perché... I Cenere non vengono, è il giovedì, non possono... Azzardo? Rattenconing. Vabbè, dai, proviamo, tentiamo. Bella a tutti e a tutte.